Pane, burro, rock and roll, martedì 11 settembre 2007, puntata numero 7, sono... Hai capito? 2007, puntata numero 7, che bel gioco di parole. Sono le 8 spaccate, anche quest'oggi, a Pane, burro, rock and roll, con gli uccellini in sottofondo, i galli e quant'altro, abbiamo la sveglia. Alla vecchia, come si faceva una volta, il nostro vinilozzo, pronto a partire. E i Rolling Stone che vi raccontano come lei in realtà sia un arcobaleno. She's a rainbow. A tutti gli innamoratoni là fuori, fate palpitare il vostro cuore con il rock and roll. Senti che roba. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Everywhere. She comes in colors. Seen her dressed in blue. See the sky in front of you. And her face is like a sail, speck of white so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Everywhere she comes in color. Have you seen her all in gold? Like a queen in days of old. She shoots colors all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fair? Amore in formato famiglia che gettiamo dalle frequenze di Rock FM, da un periodo particolarmente felice per gli spacciatori dei Rolling Stone, questo Their Satanic Majestic Request, dove ci sono loro agghindati un po' da maghi esoterici in copertina, Mick Jagger con una sorta di cappellino alla Mago Merlino, insomma. Vi abbiamo capito, mascherine, a voi, eh? She's a Rainbow, il brano che apriva questo disco, e come potete sentire in sottofondo ha anche dei momenti abbastanza particolari di psichedelia e quant'altro. Ci terrà compagnia fino a venerdì. Ieri vi avevo proposto un altro brano, ma è un po' così, il brano della riserva. Si fa un po' alla vecchia, poi Spadino mette quello che vuole lui, fa bene, mi piace questa cosa, Spadino. Cioè, diciamo che per tutta la settimana abbiamo i Rolling Stone seduti qua di fianco che ci tengono compagnia. Poi dopo si sceglie un po' a casaccio, come è giusto che sia. Abbiamo spesso e volentieri messaggi di maestre, anche ieri ne avevamo salutata una, quest'oggi si firma maestra Rocchettara, e ha un'invenzione. Non è l'unica, tra l'altro, stamattina l'intervento del buon Frick sull'invenzione della carta igienica ha iniziato a smuovere le vostre coscienze. Ragazzi, bisogna inventarsi qualcosa entro breve, poi lo si brevetta tutti insieme. No, vabbè, dai, ve lo facciamo brevettare a voi. Magari a noi ci date una piccola percentuale così per lo stimolo. La nostra maestra Rocchettara inventa le schede autonome. Ovvero, quando i bimbini hanno finito di lavorare, in un cesto ci sono cartoncini con esercizi di inglese che poi andranno a svolgere da soli. Meno richieste, più autonomia. Hai capito? Da una maestra Rocchettara. Senti un po', maestra Rocchettara, i tuoi bambini come li pigliano i Kinks? Cioè, fanno i matti? Vediamo un po'. All day and all of the night. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Raccontarvi quello che capita nei nostri studi quando partono cotanti brani, i Kinks di All Day and All the Night, e scatta subito la festa da Rock FM, e d'altra parte, essendo dei rocker, citando i Kiss, no? Com'era? Rock and roll all day and party every night, no, insomma, è una roba del genere, rock and roll tutto il giorno, tutta la notte, la mattina, insomma, si festeggia da subito. Salutavamo un'amica, una maestra Rocchettara con una buona invenzione. E dicevo, c'è qualcun altro, leggerò questo sms che arriva sempre al 335 100 77 77, reparto inventori. Lui scrive: io un'invenzione seria ce l'ho, ma fino a quando non la deposito all'ufficio brevetti purtroppo non ve la posso svelare. Anzi, se mi spiegate come funziona il brevettaggio, buona continuazione. Guarda, manderò Frick, è Frick che c'ha il pallino delle invenzioni, quindi è lui che devo chiedere. È già andato in brodo di giuggiole. Ci informeremo, caro amico, e le faremo sapere. Ovviamente si smezza, però, eh. Cioè, una volta che... Ehi! Ehi, Spadino! Ti conosco quando fai così, eh? Alleluia, fratelli! Si fa ginnastica! Il risveglio muscolare di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Solo se vedete la luce. Do you see the light? È certo che la vedo la luce. What way? Quella là. Have you seen? Sì, la vedo. Yes! Yes! Yes! Jesus H. God damn Christ! I have seen the light!

Lena Skinner, così dedicata a tutti i vecchi sudisti all'ascolto. Preacher Man, 8 e 19 minuti primi, pochi i minuti che ci dividono, che ci separano dal momento quiz di Pane, Burro e Rock and Roll, momento del test attitudinale, una domandina al giorno per scoprire se siete dei veri rocker oppure no e per accumulare punti per la vostra patente da vero rocker. C'è sempre l'Ariele con Spadino in regia, mentre Freak prepara le domande di quest'oggi. Siamo sempre nella missione, in codice Davide contro Golia, speciale La Nicchia Vincerà, nella quale andrò a salutare un po' di amici che giustamente ogni mattina continuano a scriverci, ogni giorno sempre di più, al 335-100-7777. Partirei da Marte della Terra, così si firma. Marte dalla Terra, scusate. Mio figlio, 3 anni, va all'asilo con la toppa di Ozzy Osbourne nella cartella. Mi devo preoccupare? Decisamente no. Ho messo bene già dall'inizio. Un saluto a Disa, che si firma Bacisa. Potrebbe essere Bacisa o magari si chiama Bacisa invece. Veramente. Gian Uzzi. Uzi che mi sgrida giustamente, guardate, mi cospargo il capo di cenere, ho citato i Kiss sbagliando come un deficiente. Rock and roll, all night and party every day. Tra l'altro, per peggiorare la mia situazione, l'ho anche incisa quella canzone, quindi... cioè no, non l'ho incisa con i Kiss, l'è incisa in un disco dei Pay che si chiama The Very Best of the Rarities of the Origin of the Band. Aiutate il DJ Ariele a sopravvivere sulla dura strada del rock and roll e comprate i suoi dischi. Sembra un buon motto da tenere a Pane, Burro e Rock and Roll. www.amore.net. Un saluto a Filippo, Vale, il buon Gian, i Worker Blues Rockers che si lamentano che non li ho ancora salutati, ma ciao! Un abbraccio anche ad Alice, a Paolo da Genova, a un amico in forma, Graziano da Milano, Ripcheck, e ancora in tanti che non si firmano, e quindi chiudo con Fabio da Imola. Ti è. Allora, rilassatevi, anche Alessio, via, già che ci siamo. Rilassatevi che tra poco, dicevo, c'è il test attitudinale. Sono rapito da questo messaggio di Andrew da Milano, arrivato in diretta. Grande Ariele, ma possiamo continuare l'operazione cartolina per sempre? È che mi chiedete il permesso. Cartolina postale qui nei nostri studi continuano ad arrivare. Ogni giorno ne arrivano, quindi se volete andare avanti, oh, a noi piacere fa, eh. Noi andremo avanti a leggerle fino a quando non ci licenzieranno, quindi guardate. Mandatele pure. Però relax, ragazzi, tranquilli, preparatevi bene, se no poi mi sbagliate la domanda, vi si inversa tutta la giornata. Fanfare per l'uomo comune, Emerson, Lake and Palmer, in preparazione del test attitudinale. Relax, respirate. Butta fuori, butta fuori. sono decine e decine di presentatori della televisione italiana che vorrebbero condurre qui sulle frequenze di Rock FM il momento del test attitudinale, ma noi sa cosa gli facciamo, caro Freak Antoni? Il gesto dell'ombrello, perché ci teniamo Freak e non vogliamo nessun altro per questo spazio, dico bene? Un encomio per il vostro coraggio, sono lusingatissimo, né io abbandonerò la postazione, il no, test non lo farò mai. Senza di lei saprebbe di qualcos'altro e correrei al volo a fare la domanda di quest'oggi, se le va. Ma naturalmente sì, partiamo subito con i test attitudinali perché regaliamo a chi risponde esattamente diversi punticini per la patente di autentico rocker. Era il 1971 quando i Pink Floyd, all'apice della popolarità, accettarono l'offerta di girare un film concerto che passò alla storia per alcune particolarità. Ricordate quali? Come al solito restringiamo il campo per favorirvi alle tre soluzioni possibili. Risposta numero 1. Fu registrato in cima all'Everest e i componenti del gruppo dei Pink Floyd dovettero suonare con delle bombole d'ossigeno. È forse questa? Oppure, il film concerto fu registrato nella suggestiva Pompei in completa assenza di pubblico, pur utilizzando tutti gli effetti audiovisivi che la band usava di solito nei concerti megalattici di quegli anni in presenza di migliaia o centinaia di migliaia di persone. È forse questa la risposta esatta? O ancora, terza ed ultima ipotesi, il film concerto fu registrato nello scantinato della casa di Syd Barrett ed il pubblico presente era composto da esattamente 250 nani. Forse è questa quella giusta? Chi lo sa? La risposta, come al solito, a dopo, la soluzione ve la diamo tra poco.